Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, parliamo questa sera di un mito della letteratura universale, l'opera che è considerato il primo esempio di romanzo moderno, il Don Quixote, che ha ispirato poi tanti altri artisti, per esempio il musicista francese Jules Massenet, autore di un'opera intitolata L'eroe di Cervantes, di cui vi propongo alcune note. Le abbiamo ascoltate queste note perché è proprio a quest'opera che si ispira il protagonista dell'ultimo romanzo di Salman Rushdie, intitolato appunto Quixote, tradotto da Giovanni Pannofino per Mondadori, 450 pagine, 22 euro. Quixote è lo pseudonimo che assume Ismail Smail, un modesto rappresentante di medicinali, ormai pensionato, trasformato dal consumo compulsivo di robaccia televisiva che Rushdie ci presenta con questo. Parole. Per effetto di questa pressoché totale dedizione al materiale audiovisivo, che ai vecchi tempi gli giungeva attraverso il tubo catodico e nella nuova era degli schermi piatti tramite display a cristalli liquidi, al plasma e con diodi organici a emissione di luce, era caduto vittima di quel dilagante disturbo psicologico in cui il confine tra verità e menzogna si fa sfumato e indistinto. Tant'è che a volte si scopriva incapace di distinguere l'una dall'altra la realtà dalla reality e aveva cominciato a considerarsi cittadino naturalizzato e potenziale abitante di quel mondo immaginario al di là dello schermo, a cui era così devoto e che a suo modo di vedere forniva a lui e quindi a tutti le elementari norme morali, sociali e pratiche nel cui rispetto l'intera umanità avrebbe dovuto vivere. Con il passare del tempo, sprofondando sempre più nelle sabbie mobili di quella che potrebbe essere detta realtà irreale, si era sentito emotivamente sempre più coinvolto nelle vicende di molti abitanti di quell'altro mondo più brillante, del quale riteneva di poter rivendicare a pieno titolo la cittadinanza, come una Dorothy dei giorni nostri che mediti di trasferirsi in pianta stabile a Oz. E a un certo punto, senza dapprima accorgersene, sviluppò una malsana passione, in quanto totalmente unilaterale, per una certa personalità della TV, la bella, arguta e adorata Miss Salma Aar, un'infatuazione che lui, in modo decisamente improprio, definiva amore. In nome di questo presunto amore, si risolse a inseguire con il massimo zelo la sua amata attraverso lo schermo, nell'esaltata realtà ad alta definizione, quale che fosse, da lei e dai suoi simili abitata, per conquistarne il cuore con le sue gesta e il suo garbo. Miss Salma diventa quindi l'idolo che Ismail è sicuro di conquistare, le si rivolge assumendo, ispirata appunto da Massenet, lo pseudonimo di Quixote, crea una sorta di avatar, un interlocutore fantastico, un figlio immaginario che sarà naturalmente il suo Sancho, col quale si metterà in giro per gli Stati Uniti alla ricerca della sua Dulcinea. Ma quella di Rushdie non è semplicemente una trasposizione del Don Quixote tradizionale. Il libro ben presto si arricchisce di altri espedienti narrativi, la trama diventa plurale e debordante, come scrive lo stesso autore, espressione di un mondo frammentato. Perché, spiega Rushdie, si è verificata una specie di fissione nucleare nelle vite e nelle relazioni umane. Le famiglie si sono divise, milioni e milioni di noi si sono spostati ai quattro angoli del globo. Queste famiglie disintegrate sono probabilmente le lenti migliori a nostra disposizione per osservare il nostro mondo disintegrato. E all'interno delle famiglie disintegrate ci sono persone disintegrate, disintegrate dalla perdita di qualcosa, dalla povertà, dai maltrattamenti, dal fallimento, dall'età, dalle malattie, dal dolore e dall'odio, che pur tuttavia provano, nonostante tutto, ad aggrapparsi alla speranza e all'amore. E queste persone disintegrate, noi, il popolo dei disintegrati, potrebbero essere gli specchi migliori per questi nostri tempi, schegge splendenti che riflettono la verità dovunque viaggiamo, dovunque approdiamo, dovunque rimaniamo. Così Rushdie, che ci dà frequenti altri richiami letterari nella sua opera, per esempio richiama Pinocchio, che diventa un modello per Sancho, anch'egli desideroso desideroso di trasformarsi in un ragazzo reale e vivo, e che si imbatterà anch'egli in un grillo che parla in italiano, anche nella versione originaria, un grillo che lo doterà di patente e bancomat. Insomma, un romanzo fluviale, salutato all'estero con giudizi discordanti, ma ricco di reminiscenze e ricordi non solo letterari. E di Don Chisciotte è uscita una versione ridotta e illustrata coi testi di Cervantes e le immagini di Giusi Rigoni, pubblicata da Töpfer, 122 pagine, 39 euro, mentre La saggezza di Don Chisciotte e I proverbi di Sancho Pancia sono presentati nel libro omonimo curato da Gian Andrea di Antonellis, scrittore e saggista, pubblicato da Solfanelli, 96 pagine, 9 euro, che ripercorre l'immortale opera di Cervantes per riproporre le verità eterne universali in essa contenute, mentre le edizioni integrali più recenti dell'opera classica sono quelle pubblicate da Einaudi con la traduzione di Vittorio Bodini e l'illustrazione di Gustavo Doré in due volumi, 1440 pagine, 25 euro. Quella di Newton Compton, tradotta da Barbara Troiano e Giorgio Di Dio, 800 pagine, 5,90 euro, e quella di Bompiani, tradotta da Angelo Valastro Canale, 2166 pagine, 35 euro. E naturalmente non può mancare il confettino. Vi segnalo una recente edizione adattata da Roberto Piumini per Mondadori, illustrata da Fabio Visintin, 64 pagine, 17 euro, e poi un'edizione ridotta e illustrata per i ragazzi da Ida Viviani, pubblicata da Mediares, 16 pagine, 5 euro. Un altro grandissimo visionario, questo autentico di tutt'altro genere e capace, questo sì, di cambiare davvero la vita a molti che lo incontrarono, fu San Francesco, che è protagonista del libro di Massimiliano Felli, scrittore giovane, autore di Vite apocrife di Francesco d'Assisi, pubblicato da Fazzi, 372 pagine, 17 euro, questo romanzo storico. Ispirato a una pagina autentica del francescanesimo, nel 1266, 40 anni dopo la morte di San Francesco, l'ordine francescano è fortemente diviso e il ministro, il capo dell'ordine, Bonaventura di Bagnoregio, decide di pubblicare una nuova biografia di San Francesco, quello ufficiale, che deve fare piazza pulita delle versioni precedenti e dare un po' la verità ufficiale sulla vita e l'opera di San Francesco. E appunto in un capitolo a Parigi si decide che quest'opera, che poi sarà chiamata La leggenda Maior, dovrà essere la versione ufficiale della vita di San Francesco, e per questo appunto Bonaventura comanda di distruggere tutti i documenti precedenti che esistevano sulla vita di San Francesco e di cercare l'ultimo sopravvissuto fra i seguaci diretti del santo, cioè frate Leone, che vaga tra i boschi ormai ammattito e che minaccia il buon nome dell'ordine con le sue parole senza senso. E appunto un giovane, frate Odato, un amanuense, viene mandato a cercare il vecchio frate, ma questi non ha il coraggio di distruggere i documenti e anzi decide di mettere in salvo dalle fiamme i manoscritti apocrifi e andrà a cercare proprio Leone, che ormai anziano, probabilmente ammattito, appunto gli racconterà la sua versione dei fatti. E ne emerge un quadro appassionante dell'epoca, delle trame che si svolsero negli ambienti monastici, delle contrapposte strategie per la creazione o il consolidamento di un mito, quello di San Francesco, della cui vita ci vengono qua presentati vari episodi nella versione del suo vecchio compagno, che ne dà un quadro non sempre agiografico, ma semmai di un uomo tormentato e preoccupato delle sorti dell'ordine al quale aveva dato vita. E il libro è efficace nel descrivere questa grande opera di marketing, diremmo noi oggi, che trovò la sua più alta espressione nella Basilica di Assisi, negli affreschi di Giotto, che sarebbero stati il primo strumento per tradire il messaggio originale di Francesco, come lamenta uno dei suoi primi compagni, Ubertino da Casale, pericolosamente incline a interpretazioni considerato di stampo eretico, che così si rivolge al suo giovane interlocutore in queste righe che vi propongo. Davvero non riesci a vedere, Deodato? Sei dunque cieco tu, il più celebre amanuense del nostro ordine? Non ti accorgi di quanto siano mendaci e faziose le pitture che poc'anzi ammiravi? È nota a tutti la tua dedizione, la tua umiltà autenticamente francescana. E dunque, sei in buona fede, Abbi il coraggio di osservare con attenzione la Bibbia dei poveri. Non è così che la definiva il nostro ministro generale? Ma quali poveri? Se si parla di riservare tutta la parte superiore della basilica alle cerimonie ufficiali dell'ordine. Nessuno dei poveri tanto cari al Santo Francesco avrà mai accesso qui dentro. Solo alti prelati, dottissimi chierici e, naturalmente, dice, e guarda con sprezzo il trono papale al centro dell'abside, il pontefice romano. Guardate, è forse raffigurato qualche lebbroso nella basilica dedicata a colui che amorevolmente li curava e li baciava? Io non ci trovo dipinti che papi e prelati, gli stessi che finanziarono la costruzione di questa basilica, spacciando indulgenze per le anime di chi versava un obolo nelle loro tasche. Hanno inventato un purgatorio di cui pretendono di possedere le chiavi come San Pietro tiene quelle del paradiso e ne dischiudono le porte dietro l'autocompenso. Il protagonista del libro di Felli, Fra Diodato, probabilmente avrà vagato sulle strade che ci presenta Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo, in Le vie di Francesco, un cammino di spirito e natura fra Firenze, Assisi e Roma, pubblicato da Ediciclo, 224 pagine, 16 euro. Mettersi a piedi sulle tracce di San Francesco, come ci invita a fare Ardito, significa prepararsi a un percorso di 450 chilometri che l'autore ha compiuto in 16 tappe, 24 giorni di cammino, ma ne vale la pena. I luoghi francescani sono sicuramente tra i più belli d'Italia e poi, come spiega nella prefazione l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuffi, la lentezza del cammino permette di cogliere appieno la bellezza e immaginare e rivivere l'umanità di un uomo evangelico dal quale emanava il profumo dell'umanità primigenia, cioè dell'uomo così come è stato pensato dal Creatore, libero dalla corruzione del male, pieno di quell'amore che permetteva di rendere le fiere mansuete e di toccare il cuore di tutti gli umani. A differenza del celeberrimo cammino di Santiago, quello di Francesco, spiega Ardito, non ricalca un itinerario specifico, ma si svolge lungo un mosaico, un reticolo di sentieri e un'invenzione moderna e quindi ricco di varianti. Francesco e i suoi frati camminavano tantissimo, speditamente. Probabilmente lo stesso Francesco andò anche a Santiago tra il 1213 e il 1215 percorrendo almeno 4300 chilometri. Questo percorso, questo di Ardito, parte dalla Verna, poi tocca la Toscana, l'Umbria, giunge a Roma e nel libro troveremo anche immagini e indicazioni pratiche che ci faciliteranno l'impresa. E a proposito di Santiago, che certamente forse è uno dei più celebri e battuti pellegrinaggi, almeno fin dal Medioevo, quando gareggiava con quello per Gerusalemme e per Roma, a proposito di Santiago troviamo la prima guida a quel pellegrinaggio nel libro curato da Paolo Caucci von Sa, rettore della confraternita di San Jacopo di Campostella, guida del pellegrino di Santiago, pubblicato da Jacobook, 144 pagine, 16 euro, che ripropone un testo antichissimo, richiamato dal quinto capitolo di un manoscritto famoso, il Liber Sancti Jacobi, conservato in un codice della cattedrale di Santiago e che risale certamente a prima del 1173. Il curatore, nella lunga introduzione, ci presenta quest'opera, collocandola all'interno della più che millenaria tradizione del pellegrinaggio a Santiago e leggendolo come un'espressione significativa della vita e del senso del pellegrino per Santiago, animato dalla ricerca di un rapporto personale con San Giacomo. La guida vera e propria è contenuta in una sessantina di pagine ed è rivolta nei suoi 11 capitoli alle necessità pratiche del pellegrino, quale percorso scegliere tra i cammini possibili, quante giornate calcolare per il viaggio, dove trovare riparo, quali monumenti visitare e perfino, una volta arrivati a Santiago, che shopping fare. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba, ci accoglie una voce nota. Io non ho mai voluto dei figli, sul serio, perché uno fa i figli e poi che succede? Cioè, tu sei carino con loro, li allevi, soffri, ti occupi di loro e alla fine crescono e ti accusano di aver l'Alzheimer. Era la voce italiana di Woody Allen che ci introduce alla sua autobiografia, a proposito di Niente, che la nave di Teseo ha pubblicato in anteprima mondiale dopo che altri editori avevano bloccato, per esempio Hachette in Francia, l'uscita del libro a seguito dell'intervento del grande accusatore di Allen, il figlio Roman Farrow, che l'ha accusato di molestie sessuali ai danni dell'altra figlia dell'attore. Nel frattempo, come avrete forse letto nei giorni scorsi, Roman Farrow, un noto giornalista, autore di un celebrato libro sul caso Weinstein, che gli ha fatto vincere il premio Pulitzer e lo ha lanciato tra i giornalisti più noti e acclamati d'America, è tornato al centro delle polemiche perché un giornale, certo non sospettabile di posizioni conservatrici o maschiliste, il New York Times, ha messo pesantemente in discussione il metodo giornalistico dello stesso Farrow, con notizie non verificate, testimonianze contraddittorie, fonti anonime e molti errori. L'inchiesta su Weinstein non è stata nel complesso intaccata, ma certo molte ombre sull'operato professionale di Farrow si sono diffuse. E dalle accuse che gli ha rivolto, Allen si difende nel libro, che in Italia è stato tradotto da Alberto Pezzotta, appunto dalla nave di Teseo, al quale dobbiamo riconoscere il coraggio anche intellettuale di pubblicare questo libro, 398 pagine, 21 euro. Della vicenda che lo ha riguardato, nel libro Allen parla a lungo, scagliandosi anche contro la stampa, in particolare proprio contro il New York Times, che scrive: non ha fatto che pubblicare articoli su articoli che implicavano, presumevano, che avessi fatto qualcosa di orribile, scrivendo ogni volta che ero stato accusato di avere molestato mia figlia e non sempre specificando che io negavo di averlo fatto e che non ero mai stato incriminato. Quello che non dicevano, anche se lo sapevano, era che due indagini separate avevano dimostrato l'infondatezza delle accuse e così negli articoli rimaneva solo l'accusa, come se la mia innocenza non fosse mai stata provata, quando invece era proprio così, come se la mia parola non valesse niente, come se chiunque fosse bravo a negare. Così Woody Allen. E il suo libro è interessante per molte altre ragioni. Woody Allen ci racconta la sua vita, il suo ambiente, New York, con l'ironia e l'intelligenza che conosciamo, applicando innanzitutto a se stesso una capacità di osservazione affettuosa ma implacabile, come dimostrano queste righe, una sorta di ironica autopresentazione intellettuale. A parte le gang di New York, la mia biblioteca consisteva solo di fumetti. E non lessi nient'altro fino a 16 o 17 anni. I miei eroi letterari non erano Julien Sorel, Raskolnikov o gli zotici della contea di Ocknapatapha. Erano Batman, Superman, Flash Gordon, Namor e Hawkman. Oltre a Paperino, Bugs Bunny e Archie Andrews. Gente, state leggendo l'autobiografia di un misantropo ignorante e patito di gangster. Di un solitario incolto che se ne stava davanti a uno specchio a tre ante a fare esercizi con un mazzo di carte per nascondere un asso di picche nel palmo della mano, renderlo invisibile da qualunque angolazione e gabbare qualche ingenuo. Certo, alla fine venni travolto dalle massicce mele di Cézanne o dai piovosi boulevard di Pissarro, ma solo perché bigiavo e avevo bisogno di un riparo in quelle gelide mattine invernali. Pranzavo alla caffetteria del MoMA e poi scendevo nella saletta sottostante a vedere qualche classico. Carol Lombard, William Powell, Spencer Tracy. Di certo meglio del museo inacidito della professoressa Schwab che chiedeva la data dello Stamp Act o la capitale del Minnesota. A seguire, bugie a casa e a scuola il giorno dopo. Frenetici sotterfugi, giustificazioni contraffatte e inevitabilmente smascherate, rabbia dei genitori. E il tormentone. Con quel quoziente di intelligenza che ti ritrovi, che non era così alto, cari lettori, anche se a sentire mia madre avrei dovuto essere capace di spiegare la teoria delle stringhe. Ma lo vedete dai film che ho fatto. Alcuni sono divertenti, ma nessuna delle mie idee sarà mai la base di una nuova religione. E poi, non mi vergogno ad ammetterlo, non mi piaceva leggere. E perché avrei dovuto? La radio e i film erano molto più elettrizzanti. Non c'era nulla di paragonabile a Plastic Man o a Captain Marvel. A me piacevano i fumetti, per quanto elementare fosse la loro prosa. E quando più tardi mi iniziarono a Shakespeare, me lo inflissero in modo tale da desiderare di non udire più per il resto della vita espressioni come meco indulgenti e lacrime generose. E un'ultima introduzione al huge world view, all'ampia visione del mondo che Allen autoironicamente si attribuisce, è quella di Roberto Escobar, filosofo e appassionato di cinema, ben noto ai lettori del Sole 24 Ore, autore de Il mondo di Woody, pubblicato al Mulino, 156 pagine, 14 euro, scritto non sul suo cinema, come spiega l'autore, ma nei suoi libri e con i suoi personaggi. E qui ne incontriamo tanti di film e di personaggi, ma anche di temi e di spunti capaci di introdurci a questioni vertiginose come l'esistenza di Dio, sulla quale riflette solo il protagonista di Sogni e Delitti, Bibbio Shakespeare, scrive Escobar. Di questo è certo Saul: a differenza di Mosè, Shakespeare non scolpisce leggi nella pietra, ma scrive nel cuore mutevole degli uomini e per il cuore mutevole degli uomini. Senza vedersene, Saul riconosce e sente che non solo Dio garantisce l'ordine morale del mondo, ma che lo garantiscono anche il nostro fare, il nostro soffrire, gioire, raccontare, argomentare, scegliere, decidere, sbagliare, prima e al di là della pretesa che bene e male, giusto e ingiusto siano comandati e tramandati nella pietra. E allora ecco l'importanza di avere una visione del mondo come quella che vanta Boris nel film Basta che funzioni. Egli spiega: non è indispensabile che sia ampia, per quanto sia consigliabile averne una di taglia piuttosto comoda. È necessario però, conclude Escobar, che non escluda la possibilità di lasciarsi ingannare, di cedere alle illusioni. Se non ci fossero questi inganni, se non valessero queste illusioni, non ci sarebbe né commedie né tragedie, se nessuno fosse tanto ingenuo da lasciarsene incantare. E veniamo a un poeta italiano di cui domani cade il cinquantenario della morte, Giuseppe Ungaretti, che era nato nel 1888. Di lui esce un libro di traduzioni, Visioni di William Blake, 448 pagine, 22 euro, Mondadori. William Blake è vissuto tra il 1757 e il 1827, fu un grande artista inglese, poliedrico, pittore, incisore, poeta, celebre per le sue capacità visionarie. Ungaretti, che su di lui a lungo aveva lavorato, lo definisce poeta difficile, al quale si era accostato negli anni 30, rivelandoglisi come un artista della libertà. Blake infatti era stato molto impressionato dalla rivoluzione francese e Blake, secondo Ungaretti, dalla rivoluzione francese farebbe emergere la bellezza d'anima di uomini che speravano giustizia schiacciati dalla passione, che proietta nel nostro intimo la visione di infanzia pura che si diffondeva dalla loro ira palese, scatenata o soffocata. E qui troviamo un'ampia scelta dell'opera poetica di Blake, che leggeremo in versione originale nella traduzione appunto di Ungaretti, con le illustrazioni dello stesso Blake e un utile appendice di un collaboratore di Ungaretti, il poeta Mario Diacono, pseudonimo di Mario D'Amico, con la vita di Blake e l'illustrazione dei simboli, molto importante questa per un artista così genialmente visionario. C'è una voce per esempio dedicata a Bacone, Newton e Locke, considerati come simbolo della filosofia dei lumi, contro cui violenta e radicale la polemica di Blake, o la Bibbia, molto importante come fonte di ispirazione che il poeta interpreta in molti punti a modo suo, o Dante, contro il cui cattolicesimo ortodosso Blake è in completa opposizione, ma che con Shakespeare è fonte infinita di ispirazione, o l'immaginazione, che testimonia la falsità della testimonianza dei sensi e dunque rende l'ispirazione il mezzo attraverso il quale l'essere divino si esprime per bocca del poeta in forma di pensieri e sentimenti umani. Un altro poeta, questo italiano e successivo a Blake, è Giovanni Pascoli, che riscopriamo con un libro di Cesare Garboli, scrittore e critico letterario morto nel 2004, di cui Quodlibet pubblica 30 poesie familiari di Giovanni Pascoli, 504 pagine, 20 euro. Questo è un libro di 30 anni fa, apparentemente squilibrato. Più di 500 pagine per 30 poesie? In effetti le poesie di Pascoli compaiono solo a pagina 253 e il volume, come spiega Emanuele Trevi nell'introduzione, testimonia la lunga passione di Garboli per Pascoli. Quando ne raccolse queste poesie, il materiale d'accompagnamento, per così dire, gli esplose tra le mani, tanto che del libro che pubblicava le poesie di Pascoli figurava come autore lo stesso Garboli e non appunto Pascoli, così che, spiega Trevi, la fagocitazione di Pascoli risultò non un fine da perseguire, ma un metodo integralmente e in totale buona fede messo a servizio dello scrittore indagato, della sua visibilità, della sua leggibilità e in ultima istanza del suo futuro. Le poesie sono dunque precedute da una lunga cronologia di Pascoli, la parte più riuscita e memorabile dell'opera, in assoluto uno dei vertici dell'arte narrativa di Garboli, secondo Trevi, e intorno a Pascoli, aggiunge, si lascia vedere tutta un'epoca della storia italiana. L'autore spiega le ragioni della scelta di queste 30 poesie, espressione dell'appartenenza al settore familiare, che per Garboli è particolarmente importante perché, scrive, il Pascoli è stato l'ultimo poeta italiano capace di proiettare il privato nel pubblico e di fare del proprio vissuto, con una certa totalità, un oggetto fenomenale. Lo ha fatto anche Pasolini, con eguale capacità di dar corpo a uno spettacolo organico e coerente, ma il Pascoli lo ha fatto senza mediazioni, fornendo di se stesso un'immagine assolutamente attendibile, veritiera, dove gli orli intimi combaciano spontaneamente, senza ritocchi, senza aggiustature, con quelli socio-familiari. E sentiamo allora una delle 30 poesie di Pascoli, il sonetto La gatta del 1887, letto ora da Antonio Crust. Era una gatta assai trita, e non era ad alcuno, e vecchia aveva un suo gattino. Ora una notte, su per il camino, s'ingolfava e rombava la bufera, trassemi all'uscio il suon d'una preghiera, e lei vidi, e il suo figlio a lei vicino. Mi spinse ella in un dolce atto il meschino tra i piedi, e sparve nella notte nera. Che nera notte, piena di dolore, pianti e singulti, e risa pazze e tetri urli, portava dai deserti il vento e la pioggia cadea, vasto fragore, sferzando i muri e scoppiettando i vetri. Facea le fusa il piccolo, contento. Versi che Garboli così commenta. È un Pascoli narrativo fra la prosa e l'apologo. La cadenza prosastica raccoglie un dettaglio di realtà e lo sviluppa, riempiendolo di significato, tirando insensibilmente il vero verso la metafora. È un procedimento che riproduce nel minimo spazio i grandi meccanismi del racconto tardo ottocentesco. Una trancia si stacca dalla realtà e senza volerlo vola verso il simbolo, come per esempio in Maupassant. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Michele Previati, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.